Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Se ci pensate bene, io dico che non ci credete, come faccio fatica a crederlo io, e cioè che questo sia un campionato senza strascichi, con verdetti ineccepibili su tutta la linea, dallo scudetto alle retrocessioni, ai premi di tappa intermedi, come dire, cioè alle qualificate, alle varie coppe. Io sinceramente faccio fatica a ricordare un campionato filato altrettanto liscio, ma soprattutto, al di là di qualche turbolenza che inevitabilmente c'è stata durante l'anno, ma soprattutto che si sia concluso oltretutto in anticipo senza contestazioni di sorta, e questo mi sembra, oltre che una novità assoluta, qualcosa da segnalare, perché potrebbe, chissà che non sia un segnale, anche se il segnale più importante è quello che vince chi lo merita, retrocede chi lo demerita, e gli altri traguardi li ottengono, vengono ottenuti appunto in base ai meriti, e c'è una classifica che rispecchia i meriti e i demeriti reali delle squadre. Il Milan ha totalizzato gli stessi punti dell'Inter dello scorso anno, mi segnala Franco Piantalida, ha chiuso a quota 82 come l'Inter un anno fa, segnando, con una curiosità, segnando 10 gol in meno, e cioè 65 contro i 75 dell'Inter, ma subendone altrettanti in meno, 24 contro 34. E 24 gol sono davvero pochi, non ci sono molti precedenti nella A 20 squadre. Da quando la Serie A è per l'appunto a 20 squadre, cioè dal 2004, per la quinta volta su 7 ha vinto la squadra con la miglior difesa. Il miglior attacco ha vinto 3 volte su 7 e una volta ci fu un pari merito, no? Con i 70 gol di Milan e Inter nel 2008-2009. Le classifiche di rendimento anche qui non tradiscono: la migliore di rendimento rispetto all'annata precedente, 22 punti in più per l'Udinese, e anche qui non è un caso, seguita la Lazio più 20, Milan più 12 e Napoli più 11. Chi è peggiorato di più è innanzitutto la Sampdoria, che ha fatto, pensate, 36 punti meno della stagione scorsa, 26 il Bari e 17 la Roma. E poi ci sono molte altre curiosità che sono dei veri e propri bilanci di fine stagione. Per esempio, si è segnato meno in Serie A, 955 gol, che sono 37 in meno dello scorso anno. 37 è il numero dei gol segnati ieri, tra l'altro, quindi abbondante di marcature, anche perché c'era molta allegria e molta poca attenzione nelle partite platoniche. Comunque è come aver giocato una giornata in meno, in altre parole, dal punto di vista dei gol. Totò Di Natale, nonostante il calcio di rigore fallito ieri, ha bissato il titolo di capocannoniere, e l'ultima volta che era successo nel nostro campionato era stato Beppe Signori nel 93-94 a segnare 50 gol in due anni. Di Natale è arrivato a 57. E poi ancora ce ne sono altre, per esempio che un solo giocatore è stato sempre presente dal primo all'ultimo minuto, del portiere del Napoli, De Santis. Lo scorso anno erano stati quattro ed erano stati lo stesso De Santis, Julio Cesar, portiere dell'Inter, e poi Agostini e Bonucci. Quest'anno tre giocatori sono stati titolari, in altri tre oltre a De Santis, in tutte e 38 le partite, ma almeno una volta sono stati sostituiti, e sono Nocerino del Palermo, Agazzi del Cagliari e Di Vaio del Bologna. Se poi vogliamo prendere i buoni e i cattivi, beh, le squadre più cattive sono Lecce e Roma con 9 espulsioni a testa. Se invece prendiamo le ammonizioni, sono Brescia e Chievo con 94 cartellini gialli. La più corretta è stata l'Inter con 55 ammonizioni, ma più corretta ancora il Cagliari, unica squadra di Serie A a non avere subito espulsioni. Dopo tutti questi numeri, io credo che, poiché i verdetti in ballo ieri erano soltanto due, e uno molto teorico, quello dell'ultima piazza in palio tra Roma e Juve per l'Europa League, l'unica vera curiosità era se l'Udinese avrebbe ottenuto il punto che le mancava per la Champions League. Allora sentiamo, giustamente direi, la gioia di Guidolin. Abbiamo dovuto soffrire fino in fondo, perché quando Totò ha sbagliato, cioè, ha sbagliato il calcio di rigore, cosa che non gli succede praticamente mai. Pensato che il destino aveva deciso che dovevamo perlomeno soffrire fino alla fine. però è stato bellissimo, poi è stata un'esplosione di gioia per tutti, per la nostra gente, per la nostra squadra. Ringrazio i miei giocatori, ringrazio i miei collaboratori, ringrazio tutte le persone che hanno sofferto e lavorato con noi, ringrazio questa gente, ovviamente penso alla mia famiglia, per me questa è una serata magica e voglio godermela fino alla fine. E questo era Guidolin. Poi ci sarà spazio, come ogni lunedì, per i vostri interventi in diretta. Sentirei però qualche voce significativa. La seconda che vi propongo, questa era celebrativa. La seconda è quella di Mazzardi, e qui mi sembra che invece siamo già sulla, come dire, sulla rincorsa, sull'inseguimento rispetto a certi atteggiamenti e a certe posizioni assunte. Credo inseguimento vano, da quello che si è capito. Frullare per la capa di De Laurentiis. Mazzarri. Ma io non dipende da me, io ho detto le cose che devo dire, aspetto come è giusto che sia. Gli altri allenatori hanno detto le stesse cose, ce ne 12-13 nelle stesse situazioni. Quando la proprietà, che è sovrana, che decide, io dirò la mia e poi vedremo. E vorrei precisare, soprattutto in onore dei nostri tifosi, che io non ho mai aspettato altre squadre, perché quando ho parlato solo per quello che riguarda il Napoli. Tutte le squadre che mi hanno attribuito, che delle trattative, cose, io non avrei nemmeno potuto, che chissà di calcio sa che in questi casi le società serie vanno a parlare con i presidenti. Se ci sono state delle richieste, casomai lo saprà il presidente, è inutile che parlino, sarebbe stato anche assurdo che parlassero con me. Quindi vorrei dire una volta per tutti a tutti gli insinuatori che io non ho mai parlato con una società diversa da quella che è la mia. Ne prendano buona nota gli insinuatori. Gigi Del Neri scrive: Mario Luca Focardi, che è una delle tante mail ricevute, non merita di essere paragonato al Maifredi di tragicomica memoria, anche se il risultato della Juve fuori all'Europa è il medesimo. Questo perché Maifredi aveva avuto a disposizione ben altra rosa di giocatori. E poi si dilunga in altre considerazioni. Sì, se parliamo del valore assoluto delle due squadre, sinceramente non c'è dubbio che quello fu un flop di caratura superiore nel rapporto, come dire, qualità-prezzo, no? Nel rapporto risorse a disposizione e risultati ottenuti, anche se nemmeno questo di Del Neri è uno scherzo, ma certamente non a livello di quello di Maifredi. Primo intervallo, strade, autostrade. Messaggio: da quando il campionato è tornato a 20 squadre, noi bolognesi scopriamo e riscopriamo l'esistenza di mammiferi che vanno in letargo a primavera, scrive Andrea da Bologna. Sullo stesso tono diverso, insomma, sempre da Bologna, scrive Stefano Bonfiglioli, facendo invece notare i meriti dei giocatori del Bari, che hanno profuso ieri a Bologna il massimo dell'impegno, come dovrebbe fare un professionista a prescindere dalla posizione in classifica. E poi, sempre questo ascoltatore, fa notare in particolare il comportamento del pubblico, cioè la standing ovation riservata a Grandolfo, questo giovanissimo attaccante del Bari, che ieri ha segnato 3 gol e che si è meritato quell'onore del pubblico bolognese al momento della sostituzione. Mi meraviglio di lei, scrive Gigi Lanardi, non ci sono strascichi solo perché ha vinto il Milan e perché i media, sono in mano a Berlusconi. Sì, in buona parte sì, però ce n'è anche qualcuno non ancora del tutto asservito, al di là poi dei riposizionamenti prossimi venturi, ma non ci sono strascichi perché ha vinto il Milan e ha vinto con merito, non c'è nessuna discussione su questo, ha vinto tutti i confronti diretti, sia con l'Inter che con il Napoli, ha giocato meglio, non mi pare siano sensazioni contestabili queste. Credo che gli stessi interisti napoletani, a larga o se non forse larghissima maggioranza, riconoscano che l'esito dello scudetto, della lotta per lo scudetto, è stata giusta, come è stato giusto che a retrocedere siano stati il Bari, il Brescia e la Sampdoria, e così come è giusto che l'Udinese l'abbia avuta vinta sulla Lazio, sia pure finendo a pari merito, perché l'Udinese comunque ha giocato un calcio migliore di quello laziale, e che, a proposito di grandi deluse, tra Roma e Juventus, che hanno entrambe sbagliato stagione, quella che l'ha sbagliata un pochino di meno sia stata la Roma, e per questo meriti di andare in Europa League per quel che l'Europa League può valere. Prima di passare alla linea al primo ascoltatore, sentirei ancora l'addio ufficiale di Rosella Sensi alla Roma. Bilancio di questa giornata, eravamo partiti tutti quanti, anche voi, con grande entusiasmo, perché il dispiacere un po' di tutti è non aver raggiunto quello che era un po' l'obiettivo dell'inizio stagione, perché a detta di tutti era una squadra molto forte. Purtroppo il calcio è anche questo, quindi me ne dispiace molto. Però insomma auguro alla nuova proprietà di raggiungere grandi successi. Mi dispiace che non ci siamo riusciti quest'anno, perché era veramente il nostro obiettivo. Da tifosa e da proprietà che lascia mi sento di ringraziarli veramente tutti, anche quelli che hanno contestato in maniera civile, perché credo che questa è proprio l'unicità dei tifosi della Roma: vivere con grande passione tutto il giorno e vivere proprio la Roma, per cui mi sento di ringraziarli a nome di tutta la mia famiglia, perché ci sono sempre stati vicini in ogni modo, per cui un grande grazie da parte nostra. Massimo ha chiamato da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Senta, vorrei fare una considerazione e una domanda in merito alla Juventus. Io sono tifoso juventino, per cui vorrei fare queste due cose. Allora, la prima è chapeau ancora una volta al signor Galeone, che in tempi non sospetti azzeccò la posizione finale del campionato per quanto riguarda la Juventus. Tempi non sospetti, altro che, perché era settembre e disse allora, la Juventus ricordo, quest'anno può finire settima. Poi magari vediamo se riusciamo già oggi, se no uno di questi giorni tiriamo fuori quel frammento, perché in effetti è la roba da Sibilla Cumana. Esatto, e non è la prima volta, voglio dire. Invece la domanda era questa, no? Ovviamente io personalmente ringrazio il signor De Neri, perché comunque ha fatto ciò che poteva fare per quanto riguarda questa stagione, non credo che avrebbe potuto fare di più. Ma la domanda è: siccome De Neri è un professionista serio e lo ha dimostrato in squadre come il Chievo, l'Atalanta, la Sampdoria, eccetera, eccetera, mi chiedo che cosa veramente non ha funzionato. E spero che lei in qualche modo possa aiutarmi, no, in questa domanda, e magari potermi anche rispondere. I giocatori nel Chievo correvano che sembravano dei treni, no? Tutti gli esterni, i centrocampisti, gli inserimenti e quant'altro. Nella Juventus purtroppo questa cosa non si è vista. Non credo sia stata solo una questione di corsa, eh. Io credo che siano stati come sempre tanti fattori. Non dimentichiamo la serie di disavventure. Credo che la Juventus di quest'anno abbia avuto grosso modo gli stessi infortuni della stagione scorsa, che era costata così cara a Ferrara prima e a Zaccheroni poi, più o meno gli stessi, insomma, non, forse qualcosina meno soprattutto nella parte finale di stagione, ma poca roba, cioè, siamo di nuovo più o meno a quel livello. Quindi problemi fisici, problemi anche di sfortuna se vogliamo, scelte incomprensibili di mercato, perché cioè, ci sono delle scommesse che si possono vincere, ma Martinez secondo me è una di quelle scommesse che sì, le puoi vincere, ma devo andarti una di quelle quote che non ti dico. Toni era una scommessa che non aveva senso fare dopo averlo visto 6 mesi lo scorso anno nella Roma e 6 mesi quest'anno nel Genoa, dopo aver preso atto insomma di un Toni non è mai stato un giocatore tecnico, no? È sempre stato un giocatore di lotta. Beh, insomma, io dico che mi sembra che anche le sue risorse da quel punto di vista nell'ultimo anno, e ripeto, 6 mesi in un tipo di squadra che lottava per il titolo come la Roma, altri 6 in una squadra di ambizioni diverse come Genoa, secondo me a un occhio minimo allenato dovevano bastare come eccetera eccetera, quindi poi ce ne sono tante altre. Evidentemente non credo che il revanchismo che ogni tanto fa capolino nelle parole, negli atteggiamenti, nei proclami del presidente Agnelli sia il miglior propellente per guardare al futuro, e questo vale anche per ieri, anche se ormai ieri i giochi erano praticamente fatti. E quindi sommando tutte queste cose e aggiungendone altre che certamente non vivendo l'ambiente da vicino è un po' difficile, cioè si possono immaginare, ma è un po' difficile mettere a fuoco, credo che si abbia un quadro abbastanza ragionevole dei problemi che un anno di più la Juventus ha attraversato. Da Milano ha chiamato Marcello, buongiorno. Garantire, è sempre un piacere parlarle. La saluto. Ascolti, non so se ha seguito il weekend europeo calcistico. Io sono rimasto estremamente colpito in Spagna dalla partita Deportivo La Coruña-Valencia. Sì. Io ho seguito su Sky, io sono un po' un malato di calcio, lei lo sa, quindi l'assenza dell'Italia. E mi sono rimasto veramente colpito per la correttezza del calcio spagnolo, delle persone. Al Deportivo La Coruña bastava un pareggio per rimanere in Serie A. Valencia assolutamente tranquillo, terzo. Ha giocato una partita serissima, ha vinto 2-0, un gol all'inizio, un gol alla fine. E la cosa che mi ha colpito di più, Garanzini, è la fine, quando i giocatori del Valencia sono andati quasi a rincuorare quegli altri. Sì, sì. Si immaginava in Italia cosa succedeva. Io quello, allora ho visto ieri in Inghilterra, ma in Inghilterra cambieranno le cose. Manchester United, Blackpool, Manchester United campione d'Inghilterra, Blackpool che si vince si salva. Vince 2-1 il Blackpool e finita 4-2 per il Manchester. Certo. Sono cose così, volevo mettere un po' in rilievo, perché secondo me ha fatto molto bene, ha fatto molto bene a farlo notare, perché sono lezioni anche per noi. Diciamo che nelle stagioni scorse erano lezioni per noi molto avvilenti per i comportamenti che c'erano dalle nostre parti. Quest'anno meno, nel senso che non siamo ancora arrivati lì. Le faccio l'esempio, lei ha detto giustamente Deportivo Valencia, l'ho vista intera anch'io, io la paragono a Sampdoria Palermo della settimana scorsa. Anche la Sampdoria ha avuto un atteggiamento, anche il Palermo ha consolato i sampdoriani alla fine, anche la Sampdoria ha avuto un atteggiamento abbastanza responsabile, ma tre o quattro scarpate nel finale di partita abbastanza vergognose c'erano state. Cioè c'è stato un cedimento nervoso che invece il Deportivo non ha mai avuto, quindi meglio anche lì, no? da quel punto di vista. Però almeno non c'è da arrossire quest'anno, perché a parte Lotito, ma insomma Lotito probabilmente grazie alle sue task force avrà capito qualcosa in più, ma a parte Lotito, dicevo, per esempio ieri sera il Milan ha giocato almeno 75-80 minuti di grande decoro, esattamente come il Palermo ha giocato a Genova, come il Valencia ha giocato lì, come il Manchester United ha giocato col Blackpool, tant'è vero che non in un'occasione sola i tifosi dell'Udinese si sono seriamente spaventati e hanno pensato che potesse finire abbastanza male. Poi nel secondo tempo invece l'Udinese ha preso il sopravvento, poi magari se il Milan fosse andato in vantaggio avrebbero pareggiato, ma insomma se e invece sono state partite molto dignitose e direi abbastanza in controtendenza rispetto al nostro costume. Quindi lei ha ragione, ragionissima, di far notare la lealtà altrui, ma quest'anno mi sembra che ci sia stato qualcosa di meglio anche sui nostri campi rispetto alle nostre tristi abitudini. Stamane di buon'ora è cominciato un tam tam sul sito, sul blog, sulle mail che arrivano, per segnalare a tutti gli ascoltatori che stasera riprende Sfide su Rai 3, il classico grande programma sportivo di Rai 3, e la puntata di stasera, la prima puntata di questo nuovo ciclo alle 23:10 su Rai 3 è intitolata L'ultima lezione di Enzo Bearzot. E allora molti ascoltatori, tra cui Luigi Pasini da Parma, per esempio, ho sotto mano la sua mail, ne ho presa una campione, si raccomanda di non perdere questo appuntamento di stasera. Damiano Tommasi, neo presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, è intervenuto su un paio, no, ha annunciato un'iniziativa ed è intervenuto su un dato significativo di cui parleremo nei prossimi giorni, sul fatto cioè che la voglia di cambiamento di panchina è sempre più forte in Italia, indipendentemente dai risultati ottenuti. In effetti fa un po' specie che squadre che si sono salvate e che hanno compiuto un'impresa, dunque sto pensando al Cesena per dirne uno, ma un discorso che vale anche per tante altre, il Lecce per esempio, cambiano allenatore, poi per chi e per che cosa, come mai, di chi sono le responsabilità, come vanno divise eccetera, questi sono poi tutti altri discorsi. Però Tommasi fa notare che solamente due quelli che hanno iniziato e concluso sulla stessa macchina gli ultimi due campionati in Serie A, è un intero sistema che ha preso questa piega, è un segnale su cui dovremo riflettere. L'iniziativa invece di Tommasi è quella di un corso organizzato e interamente finanziato dall'Associazione Italiana Calciatori, che si chiama Ancora in Carriera, che è stato presentato oggi a Coverciano. Ed è un corso per sviluppare le competenze manageriali che un calciatore può aver acquisito durante la carriera. Nasce da una ricerca su 3.000 ex calciatori e da questo studio risulta che il 90% al termine dell'attività agonistica vive una situazione difficile, non necessariamente economica, ma per esempio di reinserimento nella società e di inserimento vero e proprio nel mondo del lavoro. Paolo ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Una cortesia per una mia curiosità statistica. Volevo sapere se Gandolfo è il giocatore più giovane che abbia segnato la tripletta in Serie A oppure se qualcun altro lo precede. La ringrazio molto. Paolo, grazie a lei. Diciamo che questa curiosità al massimo gliela leveremo in differita, nella migliore delle ipotesi, perché così su due piedi penso proprio che sia almeno per quel che mi riguarda, è impossibile. Vedo di là dal vetro Franco Piantanini a grattarsi la pera, come si dice, no, e provare a capire da che parte può prenderla, ma in tempo reale sarà un po' difficilino, anche perché deve occuparsi di smaltire i vostri interventi, le vostre chiamate. Insomma, alcune altre incombenze. Sicché, se non riusciamo a soddisfarla oggi, vedremo di farlo certamente domani. Grazie Paolo. Da Pescara, Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Signor Bianchini, una sua constatazione. Ognuno pianga se stesso, come dice il detto. Prego. Nel senso, volevo dire che secondo lei, visto pochi anni fa Roma-Catania, quando vinse l'Inter il campionato con la doppietta a Parma di Ibrahimovic, la Roma non fece di tutto per non far salvare il Catania, infatti si salvò. Quest'anno il Catania ha giocato giustamente, ed è giusto che sia così, la partita che contro la Roma, escludendola così dal con quella vittoria sarebbe la Roma e non l'Udinese adesso in Champions League. Premessa che l'errore fu della Roma allora, non onorando lo sport, cosa che invece ha fatto il Catania, che hanno fatto in queste ultime giornate, come ha detto lei precedentemente, le altre squadre. Volevo un suo pensiero al riguardo. Mi sembra che abbia già detto tutto lei, l'ho trovato leggermente tortuosetto, se vogliamo dirla tutta. È chiaro che se tu giochi lealmente, qualche nemico te lo fai. Poi in realtà credo che la ruggine tra Roma e Catania risalga a una volta in cui la Roma infierì sul Catania, indipendentemente poi da quanto contavano i punti. Credo che ci fu un 7-0, ma anche a questo noi non siamo abituati, perché per esempio l'altra sera a me personalmente è sembrato che il Real abbia un po' tanto infierito sull'Almeria, perché 8-1, cioè se 8-1 fosse stato con 8 gol di Ronaldo, che voleva ad ogni costo battere il record di tutti i tempi del cannoniere della Liga, allora insomma ci poteva stare. Dato che 4 li ha segnati a De Bayor, che credo non li aveva mai segnati in vita sua, e che comunque per tutto l'anno è stato più una disperazione, da quando è arrivato a Madrid, più una disperazione che un valore aggiunto, beh insomma, contro una squadra già retrocessa da mesi come era l'Almeria, il Real che in casa fa 8 gol mi sono sembrati tanti. Però probabilmente questo è un modo di ragionare che abbiamo soltanto noi, e quindi quindi va bene così, insomma, e quindi si gioca, e poi se qualcuno ogni tanto ha la memoria lunga, come i catanesi ce l'hanno per esempio da anni, beh, fa parte dei rischi. Più giovane di Gandolfo a segnare una tripletta in Serie A c'è stato solo un certo Silvio Piola, mi informa un ascoltatore. Alberto da Padova rincara. Silvio Piola è stato il giocatore più giovane ad aver segnato 3 gol in una partita di Serie A. Adesso si tratterebbe. È stato Piola il più giovane triplettista. Paolo da Spoleto. L'ho appena sentito in TV, non sono un mostro. Eccolo, bravissimo. Piola, segnala Andrea da Rimini. Solo Meazza invece, dice un altro. Luigi Del Neri, Luigi da Milano, Piola è più giovane a fare la tripletta. Insomma, il nostro amico comincia ad avere soddisfazione. Poi vediamo di arrivare ai dettagli, ai numeri, alle date, ma con calma, ripeto. Vado a memoria, scrive Gio da Udine, potrebbe essere un giovane Galderisi di qualche anno fa a fare una tripletta da teenager. Allora, momento, quella tripletta di Galderisi in un Juventus Milan la vidi al Comunale di Torino, poteva essere l'82, e bisogna vedere quanti anni aveva Galderisi. Secondo me era più, aveva più anni di Grandolfo adesso. Vabbè, non è che possiamo andare avanti così fino alle 3 comunque. Francesco da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Senta, una curiosità. Sembra che l'Europa League non abbia alcun valore per tanti giornalisti. No, calma. Per tanti giocatori, squadre, dirigenti, allenatori. Soprattutto allenatori, i presidenti che mettono in campo le riserve quando la disputano. Ma non so, io sono rimasto legato alla vecchia Coppa UEFA e anche alla Coppa delle Coppe, sinceramente, di cui hanno preso parte, ha preso posto l'Europa League. Mi sembra comunque una bella vittoria vincere un'Europa League. Non è... Lei prima ha detto per quel che vale l'Europa League, allora ascoltavo e mi è venuta la voglia di telefonare, tutto qua. Per quel che vale, proprio in quel senso. Io credo che sia un trofeo, resti, certo non è la Coppa dei Campioni. No, va bene. Non vale la Coppa delle Coppe di prima, secondo me, però insomma comunque è sempre un trofeo europeo a cui concorrono un sacco di squadre e che credo in bacheca si metta volentieri. Ho detto così perché l'atteggiamento delle società, di chi partecipa nei confronti di questa manifestazione è molto, non dico di disgusto, ma è molto veramente da cartellino da timbrare, no? Perché e questo vale per tutte le società, perché quelle di quest'anno l'hanno snobbata tutti. Forse l'unica che l'ha presa un pochino più sul serio è stata il Napoli, certamente più della Juventus, che ha sempre solo schierato rincalzi, certamente più degli altri. Però il Napoli stesso, quando si trova a Villarreal a giocare la partita decisiva a 5 giorni da Milan-Napoli, il primo tempo tiene fuori Cavani. Ora, insomma, già che sei arrivato lì, magari poi Cavani può riposare la settimana dopo, poteva riposare la settimana prima, ma senza entrare nel merito delle scelte, ma giusto per fare un discorso generale. Ma dunque, lei dice che il Real è infierito sull'Almeria solo per attaccare Mourinho. Lei non si smentisce mai, scrive Carlo da Cremona. Dice: guardi, se volessi parlare mai di Mourinho, ho un repertorio abbastanza vasto, a cominciare dalle citazioni di quel grande scrittore spagnolo di cui ho parlato l'altro giorno. Non c'entrava assolutamente Mourinho, caro Carlo. Per una volta, caro Carlo da Cremona, non c'entrava nulla. È il fatto che noi qualche goleada in Italia tendiamo a risparmiarla, altrove non la si risparmia. Quest'anno il Chelsea, per esempio, ha cominciato la stagione segnando 7-8 gol a volta ad altre squadre. Da noi in genere ci si ferma prima, non è detto che uno abbia ragione e l'altro abbia torto. Matteo Livorno, buongiorno. Matteo Livorno? Sì. Sì, eccola. Dica. Sì, eccomi. No, io volevo... ironicamente esprimere la mia opinione rispetto al finale del campionato di quest'anno in Serie A, che secondo me è stata solo una coincidenza di eventi, nel senso che non siamo diventati più bravi, ahimè, ma semplicemente il calendario ha fatto un modo tale che poi in realtà ci fosse poco da giocare le ultime partite, verdetti già assegnati, di conseguenza sì, fortunatamente non si è visto lo scempio spettacolo degli ultimi anni. Ecco, questo è il mio pensiero. No, lei cosa ne pensava, insomma? No, io non la penso così, Matteo. Penso che i calendari ogni tanto possono proporre dentro e fuori, o fuori che quest'anno magari non ci sono stati, però è la testa, non è il calendario. Il Palermo può tranquillamente andare a Genova a sbraccare, non dico che il Genova potesse mollare la partita alla Sampdoria, perché questo basta vedere cosa hanno combinato i genovani nell'ultima settimana e ieri sera ancora, in particolare in Piazza dei Ferrari e in giro per la città. Non dico questo, ma dico che fino a non molto tempo fa c'era comunque l'atteggiamento mentale di dire: ah beh, ma quella partita lì, tanto quella squadra ha già vinto il campionato, oppure già in Europa, oppure già retrocessa, e quindi via libera mica tanto. E se c'è una squadra che ha dimostrato la serietà professionale fino in fondo, questa è stata certamente il Bari, e cioè quella che per prima aveva dovuto dare addio al campionato. Secondo la Gazzetta, segnala Daniele da Venezia, il più giovane a segnare la tripletta fu Silvio Piola a 17 anni, 4 mesi e 10 giorni. Beh, mi sembra che questa sia un'informazione già un po' più dettagliata, quindi direi per il momento di prendere per buona questa e di fermarci qua. Galderisi credo avesse 19 anni, adesso mi ha aiutato anche un sms, era del 63 e quella partita che a cui mi riferivo io fu giocata nell'82 e quindi aveva 18 anni e mezzo, 19, ma qui Piola ne aveva 17 e 4 mesi e quindi vince Grandolfo, qualcosina di più di Piola certamente ha. Maurizio è in linea, ah no, momento Maurizio, prima le chiedo scusa, ma prima sentiamo che cosa hai, no che cosa, io lo so già perché l'ho sentito prima, ha trovato un'altra delle sue rubriche d'autore davvero, Nicola Filippone per questa data, per il 23 maggio. Sembra ieri. 23 maggio 1915, nel primo pomeriggio, quando manca poco all'entrata in campo delle squadre per la giornata decisiva delle finali nazionali, gli arbitri comunicano ai giocatori di Inter, Milan, Torino e Genoa che il campionato è sospeso per l'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Quell'ultimo turno non sarà mai più disputato. Nel 1919, alla vigilia della ripresa delle attività calcistiche, una delibera della FIGC riconoscerà come definitiva la classifica dopo la penultima giornata, con conseguente assegnazione del titolo al Genoa. Ma due dei protagonisti di quel successo, Adolfo Gnecco e Claudio Casanova, non sapranno mai di aver vinto lo scudetto, essendo tra le vittime della Grande Guerra. Eh beh. Maurizio, dicevo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo chiederle un suo parere su una cosa. Sento sempre, anche nel suo programma, parlare di che tante soluzioni dei problemi finanziari delle società è di avere lo stadio di proprietà. Però io volevo chiederle questo, io sono abbonato del Milan, per tanti anni sono stato abbonato, quest'anno mi sono riabbonato dopo tanti anni e mi ha dato fastidio il fatto che per esempio quando ha festeggiato lo scudetto sono andati sotto i giocatori sotto una certa curva a festeggiare e cioè, mi sono sentito trascurato, diciamo così. Quindi penso che finché le società non il legame che c'è tra la società e certi tipi di tifosi non vengono tolte, diciamo, il fatto di avere lo stadio di proprietà non serve a niente, perché la gente sempre più spesso non va più allo stadio per questo motivo. Sì, credo che siano due problemi diversi. Lo stadio, il valore o la valenza se sui conti societari di uno stadio di proprietà è un discorso. I legami della tifoseria, cioè i legami della società e dei giocatori, si ricordi Gattuso all'Olimpico all'Olimpico, Gattuso e non solo Gattuso, perché c'era una certa cravatta di un certo dirigente hanno dato al collo di un certo ultra eccetera eccetera, insomma queste connection tra società, giocatori da una parte e curvaioli diciamo prepotentelli almeno, per usare proprio davvero un eufemismo probabilmente sbagliato, dall'altra fino a, insomma, è un altro discorso. Io credo che nel primo caso sia un esempio da seguire, che comunque all'estero ha funzionato, funziona, ha fruttato e sta fruttando. Il secondo è una degenerazione nostra di costume, di cui insomma prima o poi speriamo di venire a capo. Luca Modena, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo far notare come le tre squadre retrocesse abbiano tutte cambiato allenatore per poi appunto finire in Serie B, per cui per questo dico merito, non so, al Chievo, al Cesena, insomma, che sì, hanno mantenuto lo stesso allenatore. Sì, sì, anche l'Inter ha cambiato allenatore, cioè quest'anno sì, ha cambiato 12 allenatori. No, va bene, ma hanno cambiato 12 allenatori su 20. E poi lunga vita a Zamparini, perché ieri è riuscito a mettere in discussione Vecchio Rossi dopo una partita ininfluente, magari nella quale ha tenuto a riposo per la finale di Coppa Italia alcuni giocatori. Certo. E si parla già di Gasperini, lunga vita. Gasperini io lo vedo più a Napoli che a Palermo, se posso dire la mia sensazione. E Ancelotti a Roma lo vede? No, io lo vedo a Madrid, Ancelotti. Se proprio dovessi fare una scommessina, ma una quota molto alta, potrei rivedere Mourinho in Inghilterra e vedere Carletto Ancelotti a Madrid. Di sicuro so che ci sta tirando, cioè tirando nel senso che ci sta sperando, ma non da ieri nemmeno. Poi magari sarà un sogno destinato a restare tale. Giancarlo, provincia di Imperia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. No, e volevo tornare sul discorso dell'Euroleague, sull'impegno delle squadre che era stato menzionato prima, no? Dell'impegno o meno. Ma secondo me sì, in effetti è vero che molte volte la si snobba, o comunque si mettono le riserve, eccetera, eccetera. Però è anche vero, secondo me, che molte volte dipende anche dagli impegni immediati di campionato che questi grossi club hanno. Cosa ne pensa lei? Cioè, voglio dire, se un Napoli magari, che all'epoca era, se la giocava col Milan e con l'Inter, ha messo diverse riserve, mi sembra, nell'ultimo incontro col Villarreal, non aveva messo Cavani, c'era forse un motivo anche di impegni imminenti? Sì, Giancarlo, un motivo c'è sempre, o comunque un motivo si trova, una spiegazione si trova sempre ad averne voglia. Io continuo a pensare che in quel momento della stagione, io che devo fare scelte di formazione e che devo pensare a qual è l'obiettivo più raggiungibile, penso che sia più facile vincere l'Europa League che non il campionato. Penso, se alleno il Napoli, però sicuramente sbaglio, tant'è vero che gli allenatori sono altri e non io. E quindi comunque, venendo quell'impegno lì, 5 giorni prima, perché c'era stato il posticipo di campionato, o 4 giorni prima, beh, insomma, ci provo a giocarmelo fino in fondo, perché quel Villarreal, come se poi si è visto nel cammino, era rimasto uno degli ultimi 2-3 ostacoli alti al massimo che potevano esserci sul cammino verso perlomeno la finale o la semifinale. E poi invece no, non è andata così, e non ha molta importanza, anche perché siamo in ritardo ed è ora di far partire la sigletta del Giro d'Italia. Voci dal Giro. Seconda e ultima giornata di riposo dopo il tappone dolomitico, che lo stesso Contador ha definito la più dura della sua carriera. Noi riviviamo questa epica giornata di ieri nelle parole di Michele Scarponi, che è secondo ormai in classifica generale. Sicuramente Contador sta dimostrando di essere più forte, diciamo, sui rivali, continua a guadagnare. Oggi comunque, parlando di questa tappa, è stata veramente dura, lunghissima, infinita. Prima calda, poi fredda, prima ogni salita dalla prima fino a qua sulla Carpeccia, ma sono state sempre più dure, una più dura dell'altra. Sono riuscito a interpretare nel miglior modo possibile questa tappa e sono contento, dai. Ma con quale spirito? Di continuare in questa direzione. Penso che dall'Etna, in cui ero molto, molto lontano da Alberto, oggi sono riuscito, diciamo, a salire quasi con lui, quindi mi sono avvicinato e cercherò di continuare con questa grinta, con questa determinazione per cercare di restare in classifica e di far bene fino a Milano. Voci dal Giro. Mi spiace deludere un ascoltatore parmigiano, Giovanni, che sarà il primo a essere richiamato domani per intervenire. C'è giusto il tempo di dire che Francesca Schiavone ha ricominciato bene il suo cammino a Roland Garros, ha lasciato soltanto 2 game alla statunitense Udin, che era la sua avversaria di oggi. Grazie a Mauro De Angeli in regia, Franco Piantanida in redazione. Vi lascio al giornale radio. Buon pomeriggio.